Io che faccio notte dove non ti mandan via, io che mangio aria per non stare a casa mia, con tutte le avventure che il mio cuore ancora accoglie, mi sono innamorato di mia moglie. Io che avevo occhiaie che non si erano mai viste, io che non avevo il tempo per sentirmi triste, io che me le son levate tutte le mie voglie, mi sono innamorato di mia moglie. E la verità, è la verità, mai non dire mai la verità, perché le donne sanno quel che fai, ma con le donne chi non sbaglia mai. E quando stamattina glielo sono andato a dire, aveva gli occhi esatti di una che non vuol sentire, e poi mi ha detto scusami ma io ti ho già tradito, mi sono innamorata e te lo dico. È come se mi fosse capitato un incidente, volevo far chissà che cosa e non ho fatto niente. Comunque più mi brucia e più nessuno me lo toglie, che sono innamorato di mia moglie. E la verità, è la verità, mai non dire mai la verità, perché le donne sanno quel che fai, con le donne chi non sbaglia mai. È la verità, mai non dire mai la verità, perché le donne sanno quel che fai, ma con le donne chi non sbaglia. Io che faccio notte dove non ti mandan via, io che mangio aria per non stare a casa mia, con tutte le avventure che il mio cuore ancora accoglie, mi sono innamorato di mia moglie. E con tutte le avventure che il mio cuore ancora accoglie, mi sono innamorato di innamorato di mia moglie.